apagar. Una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Questa mattina mi rivolgo nuovamente a una categoria di ascoltatori che ha una caratteristica del tutto particolare. Mentre la maggior parte delle persone probabilmente sta ascoltando la radio e nelle mie stesse condizioni spazio-temporali, quindi seduta a un tavolo, quindi in una posizione statica, esiste una parte anche notevole del nostro pubblico che in questo momento sta in una dimensione di movimento. Sono quelli che stanno guidando, sono le persone che per professione, per contingenza particolare, per un capriccio del caso, questa mattina, come tante altre mattine, come tante altre volte, si stanno muovendo. Guardate che non è indifferente, cambia completamente il punto di vista rispetto alla realtà. Non ce ne rendiamo più conto perché montiamo in un'automobile, in un mezzo, partiamo, guidiamo, abbiamo fretta, abbiamo voglia di arrivare presto alla meta, ma durante il viaggio siamo continuamente contaminati da una serie di sollecitazioni. Vuoi la radio accesa, questa è buona cosa, vuoi la musica a tutto volume, è una cosa meno buona, vuoi il navigatore acceso, che c'è un'interferenza vocale continua, ci dà indicazioni sul viaggio. Abbiamo rinunciato a una parte della nostra libertà di decisione, di prendere una strada invece di un'altra, di abbandonarci improvvisamente a una deriva improvvisa del nostro estro. No, la strada deve essere quella, soltanto quella. Non esiste più quell'intuizione, quel sesto senso, quella curiosità che ci fa prendere una strada invece di un'altra. Poi abbiamo probabilmente anche alcuni supporti video che prima non avevamo. Il navigatore è supportato da una mappa della strada, da una mappa che è sempre più realistica, una mappa che sembra quasi un film della strada. Alcuni hanno addirittura un apparato televisivo, si guardano i DVD mentre guidano, non si sa come facciano, eppure lo fanno. Insomma, l'abitacolo dell'automobile sta trasformando sempre più a una sorta di abitazione mobile, quasi se noi appartenessimo per il momento in cui guidiamo a una popolazione nomade, a una sorta di etnia in continua transumanza, ci muoviamo continuamente. E mentre facciamo questo, cosa facciamo? Attraversiamo uno spazio, non ci rendiamo conto, compiamo un cammino. Nel passato compiere un cammino era un'operazione fondamentale, fatale. Il cammino si faceva una volta nella vita, era sempre un cammino di perfezione, un cammino di mortificazione, un cammino che serviva comunque a salvarsi l'anima. Si faticava sulla terra, si camminava, si seguiva un percorso antico già tracciato magari, non so, da un tracciato che era tale quale segnato nella volta celeste. Quindi camminare nella terra, fare un cammino, un pellegrinaggio, significa seguire una via celeste, perché si arrivava in un grande luogo, in un grande santuario, o a Santiago di Compostela, a Gerusalemme, a Roma, nella Basilica di San Pietro. Si arrivava alla fine di questo cammino, si era faticato tanto, si era percorso un terreno, ci si era contaminati con realtà diverse, ma si era fatto uno sforzo che comunque ci salvava non soltanto l'anima, ma ci dava un'esperienza in più. Oggi tutto questo è perduto. Entriamo in macchina velocemente, ci lasciamo trasportare. Beh, io ho fatto questa ampissima premessa perché oggi vorrei parlare delle popolazioni che si muovono, di coloro che guidano, di coloro che professionalmente fanno questo quotidiano sforzo di muoversi mentre noi stiamo fermi. 800 24 00 24, iniziamo da una figura chiave di coloro che si muovono, della popolazione in continuo movimento, il camionista. Mi chiamo Riccardo, 54 anni, e ho cominciato a fare il camionista, non voglio dire per gioco, ma poco ci manca, perché facevo tutto un altro mestiere. Prima facevo il pasticcere, l'ho fatto per 12 anni, ho portato un po' di tutto, ho portato le automobili, ho portato i bancali, ho fatto i lavori di fozzi neri, il camion l'ho guidato in tutte le sue tipologie. Attualmente sto facendo i trasporti eccezionali. Il camion c'ha il problema delle dimensioni, quello che con una moto, una macchina diventa una cosa da niente, con il camion diventa una cosa complicata parecchio. E già mentre parlavo e mentre mi lasciavo andare al mio errabondo seguire pensieri e poi non so mai dove vanno a finire, arrivano velocissimi messaggi di quelli che mi scrivono. Chi mi scrive probabilmente non si sta muovendo, invidia e immagina che si stia muovendo sia in una dimensione diversa. Simon mi dice: seduto fermo nella tua cabina con in mano un volante di dimensioni sproporzionate, hai la sensazione di guidare il mondo che ti stia davanti. E poi mi dice: ci sarà stata una motivazione per cui Emanuele Arzan inizia il suo viaggio di scoperta profonda proprio a bordo di un camion. Evidentemente chi sta a un camion ha una dimensione diversa. Poi mi chiama Marina, mi dice: da piccola, nonostante sia una femminuccia, ero affascinata dai camion che con la macchina di papà sorpassavano in superstrada. Con il viso incollato al finestrino della Diana guardavo quei bisonti e cercavo di immaginarmi le cuccette che i camionisti hanno sul retro del posto guida. Che dormivano nel camion erano stati i miei genitori a dirmelo. Per me era una cosa divertente, così provavo a scorgere qualche particolare. Una volta, fermo a un autogrill, ho visto quelle cuccette. Per una notte avrei voluto dormirci anche io. Oggi non lo penso più. Grazie, oggi è cresciuta, sa cosa potrebbe accaderle in quelle cuccette. Si passano molte ore non solo di guida, ma diciamo come impegno, perché si parte spesso la mattina presto, si arriva a casa spesso sera tardi, spesso si rimane a dormire fuori e si dorme ovviamente dentro il camion. I camion adesso sono confortevoli, c'è un riscaldamento, c'è la radio, si passa bene anche il tempo. Io poi sono appassionato di musica, ho sempre la chitarra in cabina, suono la chitarra, leggo libri, leggo riviste. Spesso i miei colleghi stanno ore e ore a parlare di camion, io mi metto a suonare in cabina e passo il mio tempo, diciamo, cercando di dargli un po' di costruttività. Certo, naturalmente Riccardo, il camionista che ci ha lasciato la sua testimonianza, rappresenta una tipicità. Non è detto che tutti i camionisti abbiano trasformato il loro camion in questa sorta di dimora fantastica dove esistono tutte le possibilità, tutti gli accessori, tutti gli strumenti per uscita dal mondo. Già in sé guidare è un'uscita continua dal mondo, non ce ne rendiamo conto perché fa parte probabilmente dell'esperienza più alienante della nostra giornata, stare alla guida. Chi sta alla guida passa un momento maledetto, un momento di costrizione, un momento in cui è schiavo non soltanto degli apparati che guidano o che aiutano a percorrere questo tratto di strada, ma anche del grande mastodontico ingorgo stradale, della massa di metallo che ci costringe, del tempo rallentato che uno verrebbe di pensare che se io scendessi e andassi a piedi farei prima. Molte volte me ne voglia di abbandonare tutto, di abbandonare la fila, la coda, l'ammasso di persone, di macchine, e andarsene a piedi, di prendere un'altra strada, di prendere un'altra deriva. E poi ci sono degli aspetti folcloristici. Oggi vedo una pagina intera su Repubblica dedicata a quel piccolo bricolage individuale che molte volte mettono a punto i professionisti del viaggio. Anni fa girava una leggenda metropolitana che per illudere e ingannare l'autovelox occorresse mettere un CD nel lunotto posteriore dell'automobile, e si vedevano tutte le automobili, soprattutto i camion, con questa sfila di CD incollati nel lunotto posteriore. Erano quelli che avrebbero dovuto illudere l'autovelox. Naturalmente non serviva a nulla, non si sa per quale emanazione misteriosa, per quale magnetica proposizione il CD avrebbe dovuto illudere l'autovelox. Oggi c'è un'inchiesta su Repubblica in cui parla il direttore della polizia stradale. Per illudere il tutor, cioè quel sistema di controllo della velocità che in alcuni tratti autostradali italiani, si sono inventati, soprattutto alcuni camionisti, la contraffazione della targa. Con dello scotch nero cambiano le lettere della loro targa, facendo arrivare le multe a delle ignare vecchiette con la Panda, magari, che non si immaginano che loro hanno solcato a velocità stratosferica il tratto autostradale con il tutor. Ecco, chi guida comunque ha necessità ogni giorno di mettere a punto anche delle eterodossie per poter mantenere il proprio privilegio di muoversi, ma per andare dove? Per andare verso dove? 800240024, voi che siete alla guida, dateci un attimo la sensazione che ci state ascoltando. Non non mi piace mettere tutte quelle cose che mettano tutti, quelle targhe attaccate, aggeggi, penzoloni. Molti colleghi la fanno diventare una succursale del proprio, della propria camera, quindi ci mettono tutti, qualcuno c'ha anche la televisione, qualcuno c'ha i DVD record, insomma c'hanno, sono attrezzati bene. Qualcuno ci mette anche per esempio i famosi calendari e che famosi dei camionisti, perché nel settore del camion quasi tutti i calendari sono di quel tipo lì, diciamo a sfondo erosio, qualcuno li tiene, qualcuno no, io non li tengo perché non l'ho mai tenuti, ma insomma non è che la cosa mi dispiace a vederla, è un articolo che piace a tutti i camionisti, io non faccio eccezione ovviamente. È un articolo che piace a tutti i camionisti, poi c'è questa sorta di associazione fra la capacità amatoria, fra la possibilità copulatoria estrema legata al fatto che si svolge una professione quasi corsara. Il camionista in particolare è un po' come il grande pirata della strada, con tutte le accezioni romantiche possibili legate a questo termine, senza insistere su quelle negative, sul fatto già molti mi stanno scrivendo sul rischio, il pericolo, il bisonte della strada, non diteci le solite storie che sono soltanto delle eccezioni camionistiche, creano incidenti, mi scrive qualcuno, ma vedete voi, esiste questa sorta di lotta, di guerra intestina e feroce rispetto ai solcatori delle strade, fra chi ha piccole macchine e chi ha grossi camion. Le piccole macchine sentono schiacciate, sentono sopraffatte le grossi camion. I grossi camion dicono: noi passiamo la vita su queste strade, una sorta di diritto di prelazione nelle scelte dei ritmi, delle velocità, degli stili di guida. Beh, abbiamo finalmente Nicola. Nicola è il primo automobilista, camionista, solcatore di strada che ci chiama. Nicola, buongiorno. Buongiorno. Lei cosa sta guidando in questo momento? In questo momento sto guidando una macchina, una semplice monovolume. E niente, volevo portare la mia testimonianza di questo viaggio allucinante che sto facendo, perché ho voluto, io sono un musicista e sono andato in Francia per fare un lavoro, insomma per dirigere un'opera, e non ho voluto prendere l'aereo, ho detto vado in macchina. E allora è da lì è cominciata tutta la storia. Non è stata una buona idea? Non è stata una buona idea, perché ho lasciato la macchina ad Avignone e da lì poi... E allora adesso in questo momento sono sull'autostrada che... Beh, io ho parlato di pellegrinaggi, lei già stava quasi sulla via Francigena, quindi era messo bene. Perché passavo anche per Lourdes quasi da un certo punto, e allora niente, mi trovo a Piacenza e sto guidando da... non so quante ore, 30, una roba del genere. Cioè 30 ore che guida senza mai dormire? Senza mai dormire. Mi fermo ogni 40-50 chilometri e faccio un pisolino di 2 minuti, 3 minuti. Dentro la macchina così, senza nessun tipo di comfort, diciamo? Niente, mi ascolto un po' di mu e poi meno male che adesso io ascolto sempre lei da tanti anni. E quindi quando ero in Francia ovviamente non potevo ascoltare lei, non c'è nessun replicante francese. Ecco, ma quali sono i pensieri? Perché io immagino la fatica di guidare è naturalmente già un problema. Tanti. Sì, i pensieri sono tanti. Sono delle occasioni di uscita dal mondo in tutti i sensi. Adesso, a parte l'aspetto negativo, faticoso e folle che non farà mai più nella vita, penso, questa scelta. No. Vista in positivo, visto che io... ho accennato che nel passato il viaggio era sempre associato al pellegrinaggio. Percorrere un cammino forzatamente significava avere molto tempo per pensare. Ecco, lei in questi 2 giorni ha avuto tempo per pensare cose a cui non avrebbe mai pensato, magari avvolto nella vita quotidiana? Beh, sì, veramente sì. Ho pensato a quanto siamo uguali in tutto il mondo. Noi italiani ci lamentiamo spesso che in Italia non va niente bene, eccetera, eccetera. E ieri mi sono messo a soffermare quanto siamo uguali, no? I francesi, gli italiani, poi ho incontrato parecchia gente che veniva da altri paesi e ho riflettuto sul fatto che siamo un po' tutti sulla stessa barca, nel senso che quanto si viaggia male in Italia in autostrada, mentre invece non è vero, si viaggia male anche in Francia, i servizi. Per esempio i bagni, adesso ne ho fatti una 60 di autogrill in questa notte e tra ieri sera, ieri e pomeriggio è stato... Lei ha una mappatura di tutte le toilette degli autogrill adesso, da Avignone fino a Pescara praticamente? Sì, assolutamente sì, in questo momento, beh, fino a Pescara no, perché non ancora arrivo a Pescara e... Comunque l'avrò, magari nei prossimi giorni gliene spedirò una copia. Comunque sia, non ho visto la frontiera tra l'Italia e la Francia, non l'ho vista, cioè i bagni erano sporchi sia in Francia che beh, io pensavo che fossero di altro tenore, anche di altra levatura, pensieri che si fanno viaggiando. Pensavo che seguire un'ipotetica via lattea camminando lungo le strade potesse portare anche a levare l'animo, ma evidentemente anche i bisogni fisiologici hanno la loro impellenza e lasciano la loro traccia profonda nell'immaginario del viaggiatore. Ma riprendiamo il punto in cui ci eravamo interrotti con Riccardo, che eravamo rimasti sospesi a quando descriveva l'abitacolo del camionista, una sorta di casa viaggiante in cui a volte anche l'eccesso nella costruzione dell'arredamento porta a caratterizzare in maniera negativa questa figura. Diciamo che ho usato il camion come alcova diverse volte quando è capitata l'occasione, non l'occasione mercenaria, diciamo persone conosciute o così, o anche con la mia moglie ufficiale, diciamo. È un'alcova fantastica, molto meglio della macchina. E c'è anche il letto, sì, che è meglio di lì non si sta. È così radicalmente legato al fatto che il camion sia per lui una seconda casa, ci tiene a sottolineare che non ne fa un uso promiscuo seguendo i luoghi comuni che vogliono appunto i camionisti come i marinai, con una donna in ogni porto, in ogni casello, in ogni svincolo autostradale, ma lui ci va come ci andasse in vacanza con la legittima consorte, perché non vede differenza fra la sua casa immobile, statica, e la sua casa mobile, che è anche luogo del lavoro. Ho al telefono Luca Andrea Massaro. Luca Andrea, buongiorno. Buongiorno a voi. È un collega che si occupa soprattutto di autotrasportatori, di trasporti. Tu lavori alla rivista TIR. Che... Sì, esattamente. La rivista dell'albo dell'autotrasporto, che è quella camera di compensazione fra imprese e ministero, sostanzialmente. Ecco, noi stiamo cercando di tracciare la figura del viaggiatore partendo appunto dal camionista, che ci sembra, almeno nel nostro limitato immaginario di osservatori, colui che passa più tempo sulla strada. Ecco, ci dai qualche cifra per capire a chi ci rivolgiamo? Quanti sono i camionisti registrati regolarmente e conosciuti in Italia, a parte quelli che poi vengono da chissà dove, ogni tanto ne incrociamo qualcuno? Certamente, a parte gli abusivi e a parte chiaramente tutti quelli che fanno il servizio transfrontaliero fra Francia, Austria, ma soprattutto i paesi dell'est. In Italia ci sono 350.000 addetti all'incirca, e distribuiti su 120.000 aziende. Sono questi i numeri, sono soprattutto piccolissime aziende, noi le chiamiamo i monoveicolari, cioè sono i padroncini, per capirci, quelli che hanno il loro camion, se lo caricano e fanno le consegne per lo più all'interno della stessa regione in cui abitano. E sostanzialmente sono artigiani, sono piccoli artigiani che cercano di infilarsi nelle nicchie del mercato e sono il più delle volte anche un po' la camera di compensazione del mercato, perché su di loro si scaricano spesso molti dei costi della grande distribuzione. Senti una cosa, il mestiere del camionista è un vero e proprio mestiere, penso... Però fra i tanti mestieri è uno dei pochi che non c'è trasmissione diretta, non è che è un mestiere che si apprende e si trasmette ai figli. È oggi abbastanza frequentato anche da stranieri. Io mi capita di vedere sempre più camionisti non italiani lungo le strade, soprattutto dai paesi dell'est, è molto facile vederli alle piazzole di sosta. Anche qui c'è ormai questo sorta di mix etnico e di culture. Le piazzole degli autogrill oggi pullano delle più diverse etnie, delle più diverse lingue. Risulta anche dal tuo osservatorio questo? Sì, sicuramente, sicuramente. E in realtà non è vera la premessa, cioè negli anni scorsi sicuramente invece si trasmetteva, come si trasmetteva, insomma, il camion e la passione per l'autotrasporto. Sono tante le ditte che esistono da diversi decenni, perché da padre in figlio più o meno, senza andare indietro di chissà quante generazioni, ma insomma la continuità un pochettino esiste. Ah, esiste, beh, questo è interessante. Un po' esiste, in un certo come... senso è anche un po' vocazione, alcuni un pochettino... qualcuno lo racconta anche così, perché c'è gente a cui piace molto stare al volante e quindi ha visto l'opportunità di vivere la vita del camionista in maniera bella, diciamo così. Quindi diventa proprio una visione della vita da cui non si stacca, un po' come appunto il marinaio. Abbiamo fatto questa visione, non vogliamo dare per forza letture romantiche, edulcorate, ma questo è l'aspetto che ci interessa questa mattina, gli aspetti più tecnici e più legati poi al comportamento, alle regole, alle leggi, li lasciamo a spazi più specifici. Quello che mi interessa è proprio l'attitudine di chi sceglie come professione quella di muoversi continuamente. Ecco, esiste con te una vocazione al movimento, all'essere nomadi, che poi porta anche a fare il camionista? Esisteva in linea di massima, cioè si sente moltissimo parlando con soprattutto con i camionisti più anziani o con i padroncini appunto che ormai hanno magari 60 anni e ne hanno passati 20 al volante, 40 al volante. E questa cosa è un pochettino passata perché le difficoltà sono molto maggiori, il traffico è molto maggiore e loro lo sentono di più chiaramente, perché mediamente un camion fa 100.000 km all'anno, anche di più in realtà, e quindi si passano innumerevoli ore nel traffico. Grazie Massaro, noi dobbiamo lasciare la linea alle informazioni sulla borsa, 800 24 00 24. Stiamo cercando di delineare uno stato mentale, una vocazione esistenziale, quella di muoversi in un momento in cui sembra così difficile una accettazione felice della contaminazione con il mondo, con il passaggio, con gli altri, in cui tutti sembriamo arroccarci nelle nostre certezze. Ancora chi di voi considera un grande momento di libertà il poter viaggiare, il potersi muovere al di là delle difficoltà, ci chiami. Melog 2.0. Rapporti con gli altri camionisti io sono molto buoni, anche perché in generale c'è qualche, come in tutti i settori, c'è qualcuno da prendere un po' con le molle, però di massima è tutta gente brava, lavoratori e gente modesta con cui ci si interfaccia con facilità, ci si vede negli autogrill, ci si conosce anche se non ci siamo mai visti, poi si parla del lavoro e gli argomenti insomma sono sempre più o meno quelli, molto inerenti al trasporto, al camion, a queste, difficilmente parlano di altre cose. Quando si trova qualcuno e parla di altre cose, allora ci leggo ancora di più, perché sono un po' sui generis, diciamo, come camionista. 800 24 00 24, stiamo parlando del mestiere di viaggiare, stiamo parlando di chi prende le misure sulla realtà continuamente in movimento, stiamo parlando del camionista che in fondo è la figura simbolo del viaggiatore, colui che lo fa per professione, ma qualcuno non ci perdona di non parlare degli aspetti tecnici, degli aspetti legali, degli aspetti delinquenziali, degli aspetti della disattenzione alle norme della strada. Nicoletti, cerchiamo di non farla troppo romantica sta faccenda del camionista, e perché se la volessi fare romantica una volta tanto, cos'è un delitto, faccio del male all'umanità. Oggi voglio parlare di questo tipo di aspetto, sempre legati alla possibilità velenosa di dover trovare l'aspetto problematico, l'aspetto legale. È vero, e sì, molte volte i camionisti creano incidenti terrificanti, molte volte i camionisti sono spocchiosi, molte volte sono maleducati, molte volte sono prepotenti, tutti abbiamo maledetto nella vita una volta almeno un camionista, ma oggi è un altro tipo di punto di vista quello che mi interessa. Si ricorda Michele che ha fatto un meraviglioso viaggio 15 anni fa in Spagna con un amico, finimmo i soldi, tornammo in autostop da Barcellona a Torino in un'unica tirata grazie a un camionista bresciano, Gualtiero, che ci raccattò dopo una notte passata all'addiaccio. Anche un'altra signora mi scrive ricordando un fantastico autostop con un'amica salita nell'abitacolo di un camionista. Antonio, buongiorno. Salve, buongiorno. Lei è un camionista? Sì. Oh, finalmente. Chiama sì. Dal camion? Adesso sì, mi sono fermato in questo momento. Dove sta? Sono a Fano, sono arrivato a Fano, sono uscito in autostrada e mi sono fermato in questo momento. Ascoltate la radio voi a bordo del camion? Io sì, poi ascolto spesso trasmissioni, diciamo, ti ho detto tipo la tua o anche il notturno alle volte. E comunque trasmissioni dove comunque ascolti il telegiornale, previsioni del tempo, previsioni comunque anche autostradali che possano dire incidenti, roba così, dai, roba interessante. Cosa fate quando siete a bordo? Allora, a me non interessano alcuni aspetti pratici, mi serve piuttosto capire qual è la dimensione del tempo dentro l'abitacolo di un camion. Siete attrezzatissimi perché avete di tutto dentro l'abitacolo. Oggi ho visitato i nuovi camion, sembrano dei camper all'interno, per quanto certo, sono fatti. Certo, sì, sono delle cabine molto spaziose, ma comunque volevo, adesso magari non volevo cambiare il discorso. No, di quello che vuoi dire, figurati. Ti volevo dire, siccome io ho 33 anni, 10 anni che faccio l'autista, mi è capitato comunque di vedere colleghi novizi, destra e sinistra, nuovi ragazzi che vanno sulle strade così con i camion. Una cosa che è quando si va nelle scuole guide, che comunque si vai a prendere la tua patente, la tua D, la tua E, il CAP, tutto quello che c'è dietro. Secondo me non ci sono le giuste... Quando tu vai sulla strada, dopo che hai conseguito una patente, almeno quello che è riguardato me, che a 23 anni ero già sulla strada, non c'è niente di quello che hai conseguito a scuola guida, non c'è niente. Quindi uguale. C'è un passaggio necessario di esperienza che non si apprende nelle scuole guide. Ma e dove si apprende? Ma si apprende sulla strada, però non è semplice, perché comunque è chiaro che sulla strada apprendi, ma... fai anche i tuoi sbagli. Sì, purché non sia a spese degli altri, ecco, questa sorta sì, di tirocinio. Adesso io appena sono un autista, una persona semplice, però secondo me scuole guide dovrebbero esserci anche dei corsi di aggiornamento. Io vedo gente che si ferma, che magari si rompe un fusibile, un camion, non è capace di cambiarti un fusibile, gente che si rompe un soffione, non riesce a isolarti un soffione. Quindi vorrebbe dire... Lei, il camionista non è più quello di una volta, in realtà c'era un'esperienza che si passava di camionista in camionista che oggi non è più sufficiente, è un mestiere che si fa senza più quella completezza di cognizioni che non sono soltanto quelle tecniche, ma sono quelle anche legate, non so, alla manutenzione del camion e anche al comportamento sulla strada. Sì, anche quello, perché comunque oggi un camion ha tutto, cioè gente che comunque hanno dei stereo, delle casse allucinanti, allora non senti anche il rumore esterno, hai dei mezzi che comunque... Cioè diventa una discoteca la cabina del camion? Anche, ma poi non tutti i mezzi sono ancora adeguati, tutti uguali, quindi c'è quello che in discesa va più piano, perché comunque ha un altro tipo di mezzo, non ha dei rallentatori adeguati a quella discesa, quindi giustamente lui va più piano, invece sono mezzi che sono dell'ultima generazione che fanno una discesa anche... a velocità elevata. Sì, sì, so bene cosa significa averceli accanto. non è una sensazione che... No, ma più che quello è perché succedono molto spesso i disastri, perché non tutti capiscono che uno ha un altro tipo di camion o di mezzo che magari è un po' più vecchio, quindi ha dei sistemi di rallentamento e deve scendere una discesa magari a 50 all'ora, quando uno può scendere anche a 90. Abbiamo capito, è chiaro che in effetti avrebbe delle cose da raccontare lei, da spiegare, da trasmettere ai suoi colleghi. Invece passiamo a un altro tipo di viaggiatore, visto che il camionista abbiamo parlato tanto, è Marina. Marina, buongiorno. Buongiorno a lei, o a te, posso darti del tutto? Ma quello che vuole mi dia. Anche tutto. Mi sto fermando perché sto andando a scuola, in un posto bellissimo, dove si vedono... Allora sta ferma perché sennò va via la voce. Ferma dove stai? Sto sotto Gissi, in provincia di... A Gissi salgo a 500 metri sull'Appennino abruzzese ed è un posto volendo bellissimo. Sono 15 anni, 16 anni di viaggi e io... Ma perché dici che per te l'automobile è un carcere? Assolutamente sì, per me l'automobile è un carcere. In automobile, ho mangiato in automobile, per me l'automobile è il posto dei pensieri, perché quando sono sola e non con i colleghi penso solo alle difficoltà e alle tristezze. Cioè stare sola in automobile ti fa sollevare tutte le angosce che soffochi durante la giornata? Assolutamente sì. Perché non provi a viaggiare in compagnia? Ma viaggio in compagnia... molto spesso, per fortuna. Beh, saranno delle colleghe funere. Quando viaggio in compagnia funere. Non posso ascoltarti. Perché? È difficile pensare in compagnia. Quindi la compagnia offusca i pensieri, comunque toglie la sensazione di tristezza. Però la vera sensazione del mio viaggio in macchina è quando sono... E quando metto 1 ora e 10 per andare a lavorare e altrettanti per tornare. Quando ho i consigli e mangio in macchina, ho dormito in macchina e lascio a casa, fatti e cose che sono lontani. Se succede, cioè io, come è già successo nella mia vita, io torno a casa dopo un'ora e un quarto, quindi è difficile. Quindi quando tu hai finito di lavorare c'è davanti un'ora e un quarto di un'altra dimensione della vita prima di ritornare a casa? Assolutamente sì. Per te è un'uscita dal mondo quell'ora e un quarto a tutti gli effetti, è un rientro quando rientri a casa? Sì, io smetto di lavorare solo dopo che sono scesa dalla macchina, perché per me la macchina è comprensiva delle ore di lavoro, è delle ore di lavoro più brutte, perché quando sono a scuola con le persone, con i ragazzi, io insegno alle superiori, e la dimensione è bella, è un lavoro che mi sono scelta, è quello che comunque mi facilita il viaggio. Marina, ti sento malissimo purtroppo, quindi lascio telefonata perché è penoso sentirti interrotta e mi rendo conto che è importante quello che stai raccontando. Mi sembra aver capito, riassumo, che la tua vita ha una scansione lunga, una sfumata lentissima tra il momento della fine del lavoro e il momento del rientro a casa, e questa finestra aperta su un'altra dimensione della vita è quella che ci interessa di capire questa mattina. 800 24 00 24, sentiamo Giuliano. Giuliano, buongiorno. Buongiorno Gianluca, sono Giuliano. Vivi anche te in macchina? Sì, ne consumo tanti di chilometri, visto il mestiere che faccio da un po' di anni, e vivo in macchina. Io devo dire che ho un rapporto con la macchina affettivo, io mi trovo bene, mi sento a mio agio veramente quando io alla mattina parto, salgo in macchina e quindi per te, scusami Giuliano, l'uscita dal mondo del viaggio in macchina non equivale, come per l'ascoltatrice che ti ha preceduto, al momento in cui emergono tutti i cattivi pensieri, le angosce, sei solo e quindi devi confrontarti con le tue angosce? Per te invece è un momento di liberazione. Esatto, io mi trovo molto bene e mi sento a mio agio, sono felice di essere in macchina nonostante tutto, perché adesso il traffico è veramente invivibile, però comunque sia bisogna trovare il bello un po' in tutte le cose. Questa è una sensazione che io ho dall'infanzia, diciamo, perché il mio primo rapporto con la macchina è stato quando il mio papà, che tornava al pomeriggio sotto sera a casa, mi faceva fare il girettino del cortile, no? E tra le sue gambe, e mi faceva tenere il volante. Io avevo questa sensazione di poter guidare un mezzo, no? Più grande di me, ed è stato un'importante emozione che me la tiro dietro tuttora, insomma. Quindi diciamo il tuo imprinting paterno, l'impronta che ha dato tuo padre, quella che in fondo essere liberi significa poter controllare un mezzo più grande, più potente, più forte, che ci fa muovere veloci e quindi ci dà dimensioni diverse dell'esistenza. Ti saluto, ti ringrazio e passo la linea alle informazioni sul traffico, visto che siamo in tema. 800 24 00 24, vedo già molte telefonate in ascolto di persone che vogliono raccontare la loro uscita dal mondo quotidiano e il loro rientro quando scendono dalla loro automobile. Melog 2.0. Mica ma ha detto zia che è 11 toccata iniezione, oh. Sembra che stia a fare l'antirabbi cancane. Questa poi è pure la prima che faccio io. E se vede pure. Come la vuoi fare, col pizzico o senza pizzico? Dammi lo strumento. Ma che sei matto con ste mani? Ammi, ma si buono, fio mio. Questo è il signore che c'ha competenza, lo vedi? Competenza? Competenza di che? In camionista? Ma i camionisti sono bravi! Io mi ricordo facevo amore con un camionista, era tanto buono e bravo. E poi mi sono stufato, vabbè, fatti iniezioni, dai! Oh! Ma insomma, me la fa o non me la fa, iniezione? Ah, signore, è fatta! A giovano, sta mano può essere ferro e può essere piuma. Oggi è stata una piuma. Mi vado a fare una mezz'ora di sonno, perché io vengo dal Brenno. Sto mestiere non è un mestiere, è una galera. Questo era Verdone, che in bianco, rosso e verdone doveva portare la sorella, la nonna, a votare in un lungo viaggio in autostrada. A un certo punto deve fare l'iniezione, si ferma e il camionista, la famosa frase, questa mano può essere ferro, può essere piuma, fa l'iniezione nel sederone grosso della nonna e dimostra che in fondo i camionisti possono essere tutto il contrario di tutto. Renato, buongiorno. Lei ha un'attitudine piuttosto strana per passare il suo tempo in automobile. Fa le foto con il cellulare. Ciao Gianluca, sì. Mi sono reso conto, leggendo il giornale, che ci sono degli incidenti strani, del tipo su strada dritta fanno dei frontali, allora mi sono chiesto come mai. E come succede? Tu hai capito come mai? Io ho capito come mai, perché c'è gente che legge il libro, c'è gente che legge il giornale, c'è gente che fa tutto in macchina, come ha detto tra l'altro anche la tua ascoltatrice, che mangia in macchina, fa le cose più strane in macchina la gente. Io ho fatto, cioè, hai visto gente che legge in macchina mentre guida? Ma no, non solo vista gente, io ho fatto anche delle fotografie alle persone che guidano e leggono tranquillamente dai libri al giornale, mangiano, fanno tutte le cose più strane fuorché quello di guidare, cioè è diventato un optional guidare, tra i quali non possiamo tralasciare i camionisti, che anche loro hanno questo brutto vizio. Mettiamoci dentro tutti, chi guida auto e chi guida camion fa la stessa cosa. Ecco, tu invece questa tua rassegna di foto, cosa ne farai? Le metti in rete? Le consegni a qualcuno? Ne fai un album personale? Perché sono testimonianze importanti, quasi un reperto antropologico del nostro adattamento in movimento. Sì, siccome hai detto giustamente tu, il poter muoversi ci dà questo senso di libertà, che sta per diventare un senso di libertà totale, in completo sfregio a quello che sono le più comuni norme del codice della strada. Certo, devo dire che l'ultima pagina di questo meraviglioso album, che spero che tu farai, devi farti aiutare da un amico, devi fotografare te mentre fai le foto, perché anche tu in fondo fai altre attività mentre guidi. Certo, io faccio l'agente di commercio. No, dico, tu fai le foto, loro leggeranno il libro, ma tu li fotografi, anche te. Sì. Stai attentissimo, quindi non vorrei dire... Ma... più o meno sei nella stessa barca, no? Ma devono recitare il mea culpa loro se vengono fotografati, perché sai, sulla strada si può fare, non c'è un problema di privacy. Sì, sì, è come quello che va a spiare le coppiette e dice lo faccio perché sono un moralizzatore, più o meno è complice dell'atto illecito. Comunque va bene, buon divertimento, ciao. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Giuseppe, un camionista. Sì, faccio il camionista e l'ultimo ascoltatore mi ha dato proprio... Gliel'ha messa, diciamo, in mano. Sì, mi ha dato lo spunto per far capire il mio punto di vista. Il suo punto di vista innanzitutto è sopraelevato rispetto al nostro. No, diciamo che io facendo come mestiere, cioè sto sempre sulla strada, mi accorgo delle cose che ha detto anche l'ascoltatore, ma anche di peggio, si fa anche tipo? Del sesso, diciamo così. Mentre si guida. Il sesso orale sì, viene fatto praticamente nella zona, specialmente fiorentina, è molto in voga, diciamo, specialmente da esibizionisti o altro. Ma il punto era questo. Cioè, lei ha stabilito che nella zona fiorentina c'è questa particolare predilezione di esibirsi in atti corporei durante la guida? Sì, abbastanza frequenti, diciamo. Ma lo fanno per voi camionisti che state in alto? Perché una persona normale non vede, all'altezza del finestrino si vede poco. Sì, no, poi fanno il cenno, fermati all'area di parcheggio. Vabbè, ho capito, fa parte delle relazioni estreme possibili anche su... Chi viaggia deve essere abituato anche a questo, perché il mondo è vario e poliedrico. Il punto era proprio questo, cioè come ha detto l'ascoltatore, che lei le ha fatto notare il fatto che anche lui commetteva infrazione al codice, lui ha detto, ha riferito la sua osservazione successiva al dire no, ma loro, dice, non c'entra la privacy. Cioè qui non ci si rende più conto veramente di dove si sta andando, cioè tutti si infrange le regole e a giustificazione si porta ma quello ha fatto, io fotografo perché quello ha fatto. No, tu commetti la stessa infrazione e vai a giustificazione e lo fai perché lui fa quello, allora io lo riprendo. Ecco, cos'altro vede lei, a parte tutte le illecite operazioni, illecite perché fuori posto, fuori tempo, che ha visto, quali sono le altre attività? Si legge, si guarda la televisione, si ascolta musica, si fanno foto, si fanno le zozzerie, poi cos'altro si fa? Si fa, secondo me, un torto a noi stessi, cioè tutto questo non pensare, cioè il fare e basta, perché tutto c'è dovuto... è secondo me la vera rovina della nostra società, cioè del nostro ritrovarsi oggi, diciamo, con le gambe all'aria, specialmente per quello che riguarda morale. Ma non facciamo adesso di tutta erba un fascio. Va bene, grazie, buon viaggio. Raffaello, buongiorno. Raffaello? Senti? Sì, benissimo, ti sento. Viaggi per lavoro, fai l'attore. Esatto. Quindi te reciterai, cioè... Adesso questa sera sono... a Cinisello Balsamo. La gente ti vedrà con un teschio in mano mentre guidi, cosa fai? Reciti la parte. Sì, che magari è uno dei miei colleghi che è morto arrivare in ritardo in scena. Ecco, però logicamente impiegherai in maniera proficua anche te quel tempo che guidi. prima di arrivare a teatro? Con i colleghi si chiacchiera, si parla di lavoro inevitabilmente, ma si parla anche d'altro. Però viaggia molto, viaggi molto come, te. Come i camionisti portano della merce, anch'io porto della merce preziosa. E la merce cos'è? Penso che sono i miei colleghi e si viaggia dappertutto, si gira l'Italia. Ecco, mi sembra che nel tuo caso ci sia una circostanza ancora più interessante. Noi abbiamo detto che il viaggio e il tempo passato in macchina è una quotidiana, consueta e comune uscita dal mondo. Esco dalla mia realtà statica, viaggio, vedo, vado, mi contamino, escono fuori brutti pensieri, faccio le cose che non farei mai nella vita, poi chiudo, fermo il motore, scendo e rientro nella mia realtà. Per te è ancora più complicato, perché poi entri nella realtà del teatro, che è ancora un'altra particolare uscita dal mondo, quindi non si sa mai quale sia poi la realtà vera in cui ti muovi, quella concreta che conosciamo tutti noi, quella del teatro, quella del viaggio. Sì, è vero, ed è un continuo muoversi tra gente diversa, tra ristoranti e paesi e teatri nuovi, e lì incontri i personaggi fondamentalmente. E ti incuriosiscono e dai quali prendi spunto. Vabbè, diventa uno scenario importante di sollecitazione, di stimoli anche per l'attore. Sentiamo per Paolo, invece camionista, con cui chiudiamo la trasmissione. Paolo, buongiorno. Buongiorno Gianluca, complimenti per la trasmissione. Io ti volevo più o meno confermare quello che è stato detto. Tu dici che quella di fare il camionista è una passione che uno deve avercela dentro, una vocazione. Certo, perché io ce l'avevo a 16 anni, volevo fare due lavori, uno era il camionista e l'altro era andare in campagna sopra le macchine agricole. Li ho fatti tutti e due, però il camion ti dà, tu sai quando parti ma non sai quando arrivi e ti trovi tutti i giorni a che fare con... Comunque anche la guida di una macchina agricola, so di cosa si tratta di avere davanti un campo da trasformare in terra nera, quindi passa una giornata intera, si fa avanti e indietro, esatto, sempre lo stesso percorso. Esatto, io la soddisfazione più grossa a 16 anni avevo una macchina a 200 cavalli sotto il culo, là da solo in mezzo aperta campagna, io avrei, in quel momento lì ho toccato il cielo con un dito. Cioè, per dirti che sono lavori che devono, al di là di tutte le problematiche che ci sono al giorno d'oggi in questo lavoro, lasciamo perdere, però ci sono anche delle cose divertenti al di là, che ormai è un lavoro che trovare delle persone italiane che vogliono fare questo lavoro qua non è difficile. Chiudiamo perché siamo arrivati in conclusione, senza soffermarci troppo poi sull'aspetto problematico, non perché ci faccia paura, perché vogliamo eludere, ma questa mattina la nostra intenzione è proprio quella di cogliere l'aspetto romantico di questo lavoro, del muoversi, dello spostarsi, per riuscire a vedere non sempre legato a delle problematiche concrete, reali, degne della massima attenzione, quello che molte volte può essere trasformato non semplicemente in una maledizione quotidiana dover salire in automobile, ma una grande occasione per uscire dalla propria realtà, che in fondo è privilegio non da tutti, quando diventa consapevole, quando diventa realmente una maniera per soffermarsi in modo più profondo sull'essenza della nostra vita. Ci sentiamo domani. Melog va in replica questa sera alle 22:00.